I'm not afraid to die.

Thank you.

I'm

che loro sono tutti là, meno uno. Io, Chingachgook, l'ultimo dei Moicani. We'll be right back. Smith.